Ma ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarese, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, ben trovati, buon lunedì a tutti, ben trovati da Caffè e Paglia, il contenitore sportivo di Radio Città Fucico del lunedì mattina che pregustiamo da un certo punto di vista, da un punto di vista sportivo, perché è stato un bel fine settimana dal punto di vista sportivo per noi, non per tutti, forse qualcuno in questo momento dentro lo studio non è d'accordo con le mie parole, però cercheremo di capire un po' come è andata anche la settimana di Simone. Caro Simone, ti vedo non carichissimo. Se qualcuno potesse intercedere per me presso il Signore e potrebbe chiedere se un attimino ci molla, farebbe un grosso favore. Ho capito che la situazione non è delle più rose. Vedo anche un ottimo Fiò, la stella della trasmissione, senza sedia. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oggi è una giornata dedicata al benessere posturale. Benessere posturale. So solo che sembri Paolo Villaggio. Sembra un po' Paolo Villaggio, esatto, sopra alla poltrona, quella che faceva cadere, forse era Fracchia, la cosa, secondo me non era Fantozzi, era forse Fracchia. Il nostro regista non è d'accordo. Vabbè, metti una canzone, poi dopo ne parliamo. Allora buttiamoci dentro la puntata di quest'oggi, 3 novembre. Il sound è sempre bello. Il regista, ragazzi, che sound. Voi che ascoltate il podcast ve lo siete persi, vabbè, però questo è un discorso interno, però in realtà c'è la possibilità di ascoltare il podcast anche della trasmissione se non siete all'ascolto in diretta in questo momento. Partiamo dal Bologna, la prima parte è ovvio dedicata alla parte positiva, dopo poi si andrà, giornata. Andrà a soffrire. In realtà si parte subito con un lungo rinvio di Suzuki, ma lungo davvero, ha fatto il rinvio ed è arrivato direttamente in area del Bologna e da un rimpallo un po' così strano, dopo 13 secondi il Bologna era sotto nel derby, che non è il miglior modo per iniziare un derby. Derby, che parolone, un derby non sentito come altri derby, però è comunque rimane una sfida contro i corregionali del Parma. Allora, quelli che fanno il famoso formaggio. La chiave di lettura derby va spesa adesso, se no poi te la ripropongono col Sassuolo. È molto importante usare derby adesso. È meglio adesso tutto adesso. Per dire, in B in questo momento prima c'è il Modena. In quel caso sarebbe un derby importante. Loro già hanno motori eccezionali. E non solo, c'è la sfida del Tortellino, no? Anche lì che si castellano. La centro balsamico, ce l'hanno. Tante cose, quindi potrebbe essere. Certo che il derby Sassuolo-Modena in Serie A sarà abbastanza pesante. Con però numeri stratosferici tipo 4.000 spettatori. Beh no, il Modena ce l'ha. Modena ce l'ha, Sassuolo, che come diceva la Radio Romana il giorno dopo la finale di Coppa Italia, l'anno prossimo ci tocca rivedere i 32 del Sassuolo. Che sono gli stessi che dicevano quando andavano in Ascoli, dove sta il campetto? I fratelli romanisti, gli amici romanisti. Bene, questo è. Bologna appunto parte male subito con il gol a freddo subito da rinvio del portiere. Però la squadra capisce che si può giocare e parte a produrre gioco. Subito una possibilità di pareggiare con Orsolini, se non vado errato, da solo praticamente davanti al portiere. Che furbo, perché c'è che al primo palo l'idea era molto buona. Di solito l'avrebbe messa dall'altra parte, invece cerca al primo palo la stringe troppo ed esce di qualche centimetro metro di poca roba, roba. Però dopo insomma il Bologna dimostra di voler giocare subito sotto 1-0, cerchiamo di fare la partita e riusciamo a farla approfittando del centrocampo in forma con un Pobega secondo me dentrissimo la partita, uno dei migliori che in campo. Pallone aveva dato quando aveva scritto il messaggio, che palla ha messo a Castro in a quel Castro, caso, a Castro, quel, a Castro, dopo, quel caso dopo il pareggio. Non vi rileggo poi quello che ho scritto di Castro dopo il messaggio perché non va bene, non si poteva dire. Pobega che torna titolare dopo un sacco di tempo, aveva fatto pochi minuti quest'anno, non era entrato ancora nelle rotazioni del centrocampo, in realtà probabilmente avrà più spazio perché si fa male anche Freuler nel corso della partita, quindi insomma è importante averlo visto tonico e protagonista di una buona partita. Castro pareggia la partita con una bellissima azione, è un passaggio perfetto di Holm, altro giocatore in crescita. Holm, sappiamo, Holm ha problemi fisici spesso, ha un fisico molto è grosso, è alto, è un cavallone, no? Come spesso chiamiamo, sempre fisici particolari, però ci da mette curare, ci mette un po' a più lento a fare tutto, sì. Però mi sembra in questo momento sia nella fase la fase appunto come Odgaard positiva, come Odgaard in forte crescita. L'azione è molto bella sulla destra, Orsolini che la passa a Holm, Holm in mezzo, Castro perfetto, un'azione di profondità e ampiezza. Cioè andiamo a prendere tutto il campo che c'è da prendere, manca solo la ciliegina su questa torta, il movimento da punta che fa Castro, proprio da punta. Allora, e date scudo, parliamo un po' di oggi parliamo di calcio davvero, a parte le che insomma le cassate intorno, perché mi ha molto entusiasmato come ha organizzato Vincenzo Italiano la fase offensiva della partita di ieri. Perché se voi andate a vedere bene le azioni offensive, il Bologna è sempre mediamente con 4-5 giocatori davanti, ok, di cui tre sono abbastanza vicini, e però non c'è una posizione predefinita, cioè è tutto un giro di rotazione. Il Castro va centrale, Odegaard si allarga, Odegaard fa il giro, arriva a sinistra, allora Castro riscala a destra e nel corridoio centrale magari ci va un altro da sinistra a destra, aiutami se sbaglio, c'era Rowe, Odegaard, Castro, Orsolini e chi c'era? Sono quattro attaccanti, sì sì, no? Perché infatti ci ho fatto caso proprio guardando il gol dopo 13 secondi di Bernabé, mi piace sempre guardare squadre come sono schierate al fisco d'inizio, perché ti dà un po' l'idea del tema che seguiranno. Mi sembra di aver visto un 4-2-4 netto al fisco d'inizio, sto parlando del fisco d'inizio. Poi guardandolo in campo, effettivamente se tu giochi con Rowe, Odegaard, Castro, oppure Castro e Odegaard più corretto, e Orsolini, tu c'hai quattro attaccanti là davanti. Sì, anche perché la posizione più avanzata non è non ha un cartellino col nome, a seconda di... Esatto, di come rotavano, in quel momento stavano appunto, l'azione che porta Odegaard all'espulsione di Ordones, è bellissima, lì c'è proprio, riassume tutto quello che sto cercando insomma di dire, ed è stato molto bello, perché torniamo al solito discorso, quando vedi una squadra la domenica che applica alla perfezione quello che hanno provato in settimana o nelle settimane precedenti, è bello, cioè mi metto nei panni di un allenatore, vedi il lavoro che è svolto, che lo vedi fisicamente e lo fanno in partita, quindi bravi, ormai sono 2 anni che diciamo bravi. Sì, dal senso di crescita, diciamo sì, che in un sì, certo senso anche il gol di Cambiaghi della settimana scorsa, che aveva la doppia ripartenza e con un cambio di fascia, perché poi Cambiaghi partendo da sinistra arrivava a destra. Prima della partita nei ragionamenti della formazione, che sappiamo è sempre un po' sorprendente, quella di Italiano, io avevo detto, ma io non vedo bene Ro e Orsolini insieme perché entrambi troppo offensivi, nessuno dei due è in grado di fare la parte che sta provando a fare Cambiaghi, ad esempio, perché quando è in campo ha la gamba giusta, perché ha una gamba per fare quasi a tutta fascia, e quindi ero dubbioso. Poi ovviamente appena l'ho detto è uscita la formazione ufficiale, c'erano Ro e Orsolini, forse mi ha ascoltato, ah sì, non posso mettere, Mingo ha detto così, ah, sì, io faccio il contrario, grande. Però, Vincere, dopo 16 secondi avevamo già preso gol, quindi avevo può essere anche, sai, quando fai questa pogufata, certo, e ti arriva. Invece prova di grande maturità tattica di Rowe, che non ha né la gamba né le spalle larghe per fare un lavoro bidimensionale, diciamo così, di copertura difensiva vera, ma è molto attento sul posizionamento, su neanche sulle preventive, proprio sulla lettura della linea. Hai detto una cosa fantastica, mi fai agganciare ad una cosa che il mio piccolo di 6 anni, che mi ha fatto notare lui, non io, quindi immagina quanto stanno più svegli di noi. A un certo punto lui è fissato con Rossolini, gli ho spiegato che è di rotella e si dovrebbe fissare su un altro giocatore, però quello segna in questo momento, vabbè, è una cosa lunga. E mi continuava a chiedere, guardando la partita sull'iPad, quindi schermo abbastanza ridotto, mi continuava a chiedere, ma papà, ma dove sta Rossolini? Perché non lo vedo? Perché era talmente largo in fascia, come stavi dicendo appunto tu, teneva talmente tanto la posizione per permettere la larghezza massima del Bologna sempre, che non entrava nell'inquadratura. Cioè, stava nella fascetta nera della cornice, capito? Fio? Cioè, l'aggancio qual è? E quindi di nuovo applausi al Bologna di Italiano per un ordine tattico perfetto. Una volta conquistato il pareggio, uno degli episodi che cambiano la partita, due gialli in pochi minuti di Ordoñez, tutti e due procurati da Jens Odgaard, che fa una partita di fatica, di sbattimento. Ma sempre poi, tecnicamente a bei livelli, però. Tecnicamente sempre il livello è quello lì, è alto. Produce due gialli dello stesso giocatore, uno andando via in tunnel al limite dell'area, costringe il giocatore a sdraiarlo, e un altro sulla prateria in campo aperto in quella ripartenza là in cui il Bologna dispiega tutto il suo potenziale offensivo, più uno perché c'è anche Pobega in quello. Aggiungiamo che però sembra lo stesso allenatore delle mie giovanili, se tu Ordoñez se fai una cosa del genere hai finito di giocare. Sì, secondo fallo Finito di giocare, non giochi mai più. Lo doveva fare quello delle due, quello di fianco, che non era ammonito, ce n'erano due. No, ma poi gli hai fatto un po' platea, cioè capire, cioè, dai, su. Brutta da vedere. Dai, realmente brutta da vedere. Il fatto appunto quell'espulsione lì, come diceva prima, si vuole far vedere la potenza di Odgaard, che riesce, è uno dei pochi che riesce a cambiare da difesa all'attacco così velocemente, proprio, così riesce a fare quella cosa che gli altri giocatori in rosa del Bologna non riescono a quel passo, diciamo così, che non riescono a avere. Caratura tecnica e fisico, che soprattutto spirito di sacrificio, perché poi insomma devi anche volerlo fare quel esattamente e perché devi sapere pressare, devi avere il fisico che ti permette di farlo. Quindi Odgaard è fortissimo quando è al top della forma, ovviamente. Ancora è uscito da un infortunio brutto, quindi non ha quella continuità, perché col Torino non sembrava così in forma, diciamo così. Vabbè, perché però c'è stata anche stata proprio brutta la partita proprio insieme, c'è troppo. Stata anche Bologna-Torino in settimana, no? Dopo la nostra trasmissione di lunedì, non era lo stesso Odgaard che abbiamo visto invece a Parma. È normale che in questo momento non abbia quella continuità che lo farebbe diventare veramente un grande giocatore a livello di Serie A, cioè non solo nel Bologna. Sull'1-1 diventa importante andare all-in e cercare la posta piena. Il campo diventa un pantano, diventa piove difficilissimo tantissimo, specialmente nella tre quarti offensiva del Bologna, giocare il pallone. Ci sono delle zolle in cui la palla si ferma. Quindi inizia proprio questo momento di scodellate, scucchiaiate, palle a mezza altezza, controlli esteticamente molto discutibili, e il pallino del gioco ce l'ha ancora il Bologna, capitalizza l'uomo in più. Il gol arriva al 138esimo tentativo, le statistiche dei tiri in porta sono abbastanza violente, e per una palla messa in mezzo da Miranda, buonissima partita la sua, avrà ancora modo di farsi notare nel corso della partita, che crossa in mezzo, rimpallo di rimpallo di rimpallo, gol di Castro, anche lì da punta centravanti, quello lì la deve sbattere dentro, ci deve stare sempre. Pochissima forma e molta funzionalità in quel gol là, che poi viene controllato per tocchi di mano, fuorigiochi non ce n'erano, era abbastanza chiaro perché c'era uno del Parma dentro la porta. Sì, non poteva essere fuorigioco, forse cercavano un colpo di mano, cioè lui quando è venuto fuori, ovviamente ormai è così, tu sei, io esulto e vedo la scritta, mi si gela un po' il sangue, no? E nell'azione non avevo visto nulla di problematico. Secondo me sono andati a vedere un possibile tocco di mano che non c'è stato nel rimpallo, quindi una roba veramente che è tipo un intervento VAR preventivo, sì. Nel senso, secondo me è tutto a posto, però ci do un'occhiata. Ci do un'occhiata. Ho capito, però io poi insomma, ovviamente a casa. Penso dove siamo arrivati. Mi sembra esagerato. Questo utilizzo mi sembra un filino esagerato. La chiude poi. Allora, il Bologna ha la capacità di gestirlo senza strafare all'inizio. Sei in 10, cioè gli avversari in 10, tu sei in 11, hai il senso di avere la partita in mano e non esageri a forzarla subito, anche perché sotto la pioggia che rendeva il campo molto più insidioso, quei 10 che devono correre fanno ancora più fatica, quindi era, diciamo, nella strada delle cose arrivare al gol anche per sfinimento degli avversari in un certo senso, però dimostra anche sul 2-1 la volontà di chiuderla, questo è importante, cosa che non era accaduta forse a Firenze. Dopo poi parliamo della Fiorentina che ha 4 punti di cui 2 regalati. Argomento elegante, argomento da top 5. No, se no ricomincia questo qua. Dai, vorrei ricordare solo questo: ha 4 punti, 2 regalati. Quindi avrebbe 2 punti, sarebbe sotto il Genoa. Sarebbe giusto questa cosa, essere sotto il Genoa per la Fiorentina in questo caso. Comunque la chiude Miranda che torna al gol dopo un sacco di tempo. E che gol! E che mazzata che tira! Una gran mazzata! Finge di metterla in mezzo come spesso fa, e invece la mette sotto la traversa di un Suzuki un po' sorpreso. C'è da pochissimo angolo, l'ha messa veramente al 7. E è molto importante una cosa, una nostra operazione culturale, portiamo avanti da molto tempo. Dobbiamo tramandare ai giovani l'amore per lo scaldabagno al 7. Che è importante, ma ha un valore del calcio di tutti i tempi. Esatto, e questo lo è stato, da laterale, quindi una roba un po' particolare, però con quella la chiude. Il Bologna a questo punto si trova al 5º posto della classifica. È vero che insomma la classifica è anche molto corta, 6 pari alla Juve, la Juve che ha intanto in settimana ufficializzato Spalletti, no? Ed è arrivato. Era chiaro, Tudor è stato esonerato al termine della trasmissione. Mi ha dato la notizia in diretta, è proprio forse l'ultima cosa che abbiamo detto, adesso non ricordo bene. Sì, è stato proprio l'ultimo annuncio, senza parole eravamo rimasti. E appunto il Bologna si trova insieme alla Juve in questo momento al 5º posto, con comunque distanze relative. Sono 4 i punti che distanziano il Bologna dal Napoli, e se vogliamo andare a fare un po' di piangina, no, quei 2 di Lecce e quei 2 di Firenze sono 4 punti, proprio esattamente i punti che ti mancano da essere primo in classifica, non in zona Champions, quindi vuol dire che la squadra c'è. Ha carburato prima dell'anno scorso, ma del resto ne parlavamo del fatto che il Bologna era una delle poche squadre che manteneva il telaio pur cambiando giocatori, vendendo non troppi, 2-3 giocatori, aveva la stessa struttura, e quindi mi sembra che rispetto all'anno scorso siamo un bel po' più avanti già di creazione della squadra. È ovvio che insomma questa settimana sarà importante, perché giovedì ci sarà l'Europa League col Bran in casa. È importante continuare a vincere per poter stare nella parte di quelli che passano il turno. Questo è l'obiettivo ovviamente del Bologna quest'anno. È una bella campagna europea quest'anno, vorrei. Ora è una bella campagna europea. Bisogna giocare più di 8 partite. Ecco, questo è l'obiettivo quest'anno, è quello. Che è anche un obiettivo economico, perché dopo dietro ci sono tutte le motivazioni anche per la società, oltre che per noi tifosi. Legata a questa cosa, appunto la squadra è lì e lotta. Quella dopo il Bran ci sarà il Napoli, quindi è diventa una settimana importante. Napoli che giocherà martedì in Champions League, quindi avrà anche un po' più tempo per riposarsi. Napoli che non brilla, dopo insomma non voglio anticipare temi di... Anche avversario tosto quello del Napoli, avversario tosto. Abbiamo qualche minuto, pochi, passiamo velocemente a Bologna-Torino. Aspetta, solo l'ultimo appunto, passiamo su Bologna-Parma. È molto bella la divisa di Zion Suzuki, blu scuro nevi col giallo Parma, bravi. Bene, bravi. Hai fatto bene a sottolinearlo, perché insomma ogni tanto qualcuno che fa delle magliette belle c'è. Dicevo, Bologna-Torino invece mi metto un po' nei panni di Baroni prima della partita. Io l'ultima volta che sono venuto qui ho preso 5 papine. Facciamo che portiamo il pullman e ce lo teniamo lì? io ho visto Baroni migliore in campo della sfida. Il Torino messo in campo da Baroni è bruttissimo da guardare, totale brutto da guardare. In fase di non possesso è un 5-5, ma la partita è preparata benissimo. Nei cambi Baroni inserisce continuamente, progressivamente, sempre più giocatori offensivi, fino a finire una squadra con 4 attaccanti che giocano in mediana. Chiusi dentro, ordinati, primo non prenderle, Paleari in stato di grazia, ma questo è quasi argomento da top 5, fa un punto fuori su un campo difficilissimo. Io devo dire bravo a Baroni. Vedere una partita del Torino, vedere quella partita del Torino non è divertente mai, cioè è veramente totale, fa molta fatica il Bologna. Migliore in campo dei rossoblù, Karalampos di Kojannis, che è quello che ci prova più di tutti. La partita è legata, non ci sono spazi, è stata veramente veramente difficile. Uscito dallo stadio non pensavo quello che sto per dire, ma il bicchiere forse è mezzo pieno, nel senso che lo sparring partner Torino, chiuso in quel modo, ti ha fatto preparare bene qualsiasi scenario che avresti trovato a Parma e chissà per le prossime. La cosa che il rammarico mi rimane, quella era una partita da Ciro Immobile. Cioè, se hai preso Ciro Immobile all'inizio della stagione, l'hai preso proprio per quelle partite chiuse, quelle in cui la squadra è e c'è bisogno della zampata, sperando che la sappia ancora dare. Contro l'ex, poi c'è, tra l'altro, grande carriera. Ciro Immobile è tornato, però mi sa che è tornato in gruppo ad allenarsi. Non ancora convocato, però è tornato ad allenarsi. Quanta fiducia ci avete voi in questa situazione Immobile, Bernardeschi, in questa tipo di situazione qua? Allora, per me è il tutor del reparto offensivo, cioè il suo ruolo è quello di mentore dei nostri attaccanti. Io non credo che Castro abbia bisogno di un mentore, però. Dallinga sì. No, capito, cioè, allora che facciamo? Cioè, spendiamo 14 milioni più la badante per Dallinga. Vabbè, ok, vabbè. Vediamo adesso. È ovvio che in questo momento hai ragione tu, nel senso che Immobile ha giocato mica per aver ragione 25 minuti e sei infortunato. Quindi in questo momento è difficile anche per noi, cioè, difendere questa posizione. Però ti dico, ecco, l'hanno preso senza pensare che si infortunasse subito, l'hanno preso proprio per quelle partite lì. Uno, perché ex, e c'è sempre il gol dell'ex. Due, perché il Bologna ha dei problemi quando il pullman viene messo davanti alla porta. E avere uno che ha il gol addosso, Che ha il gol addosso, se però c'è i rifornimenti, non è uno che crea il gol. Mi spiego? Cioè, ci vuole, insomma, che venga rifornito molto molto molto bene. Oh, ma io spero che rientri e faccia almeno 20 gol da qua a fine stagione, ci mancherebbe. L'ho anche incontrato al lavoro, sì, sei elegante con la bambina, molto bello, molto bella anche la signora, quindi si tifa per lui. È che fosse per me gli attaccanti, una volta che ho superato tipo i 32 anni, a meno che non ti chiami CR7 all'epoca, ok? Se no non è. Va bene. La mia definizione è Ok, per fortuna c'è la pubblicità. 333 180 94 94 se volete contattare questa redazione. Seconda parte di Caffè Paglia, arriva un messaggio. Secondo me Miranda voleva tirare con la stessa intensità con cui Orsolini vuole passare la palla quando è in aria, ma anche non volentieri, non volesse tirare, viva gli scaldabagno. Viva sempre. Quindi forse c'è dei dubbi. Di cui ricordiamo, Pobega dovrebbe essere un buon interprete. Lo è, confermo che lo è. Pobega è uno dei miei feticci, giocatore da tempi di Pordenone addirittura, quindi ci sta. Ce l'ha. C'ha il tiro, lo scaldabagno da fuori sicuramente ce l'ha. Seconda parte di Caffè Paglia, quella dedicata alla top 5 che appunto di cose ne ha. Intanto arriva un altro messaggio, ci chiedono se è stato già esonerato Pioli. Non abbiamo dato un'occhiata, non è ancora. Speriamo di darvi la lieta novella insomma in diretta, sarebbe carino. Pioli son ferie. Potrebbe essere il nuovo coro. Va bene, non c'è Pioli in top 5. Allora, purtroppo, se volete ce lo mettiamo, perché comunque ci passiamo vicino. Oddio, un discorso ci sarebbe da farlo, quindi magari dopo un aggancino si può fare su Pioli. Ma forse più di uno, potremmo financo iniziare da lì la top 5, sull'immagine, sul dramma di un uomo ridicolo che al 95esimo, dopo aver fatto tutto male nella sua giornata, una domenica veramente di frittura totale e globale, decide di diventare matto e macchiarsi di una serie di reati del codice civile, e tra cui insulto alla decenza, spergiuro, autosgambetto e non so, varie offese al gioco del pallone. Ma starai mica parlando di Ranieri? Ranieri è proprio lui, ma non Ranieri quello della Roma, come ha detto Willy. Ma Ranieri non è un allenatore? No, quello di Spezia che gioca alla Fiorentina, non quello romano che era alla Roma a fare l'allenatore, poi adesso fa non si sa bene cosa. Fa il cardinale Richelieu a Roma adesso, Ranieri. Fa anche il portafortuna, mi sembra, più o meno. Non fa la stessa cosa Ranieri a Firenze, quell'altro. E Ranieri che è come Bruce Wayne, cioè senza maschera è Bruce Wayne, con la maschera è Bruce Wayne con la maschera. No, calma, Bruce Wayne è miliardario, tantissimo, capito, frequenta solo le donne più belle del mondo, guida solo Ferrari F80, parliamone. Un po' meglio. Questa è la settimana di Ranieri, questa è la settimana di Ranieri, è esattamente questa, finché non va a Firenze per giocare a pallone. Sì, in realtà ne avevamo parlato appunto di questa cosa della maschera contro il Bologna, perché primo tempo con la maschera, giocatore anche accettabile, senza maschera, vedi la faccia e dopo non puoi più credergli. E Ranieri riesce in una partita persa in casa contro il Lecce, quindi insomma lo scontro diretto per la salvezza, a ammattire tutti e fare di cotte di crude. In realtà questa Fiorentina, ne abbiamo parlato anche prima, dovrebbe avere 2 punti, non 4, quindi al doppio di quelli che dovrebbe avere, ed è veramente incomprensibile, perché adesso va bene che Pioli se l'è un po' gufata dicendo non ci mettono tra le squadre della Champions, sarà uno stimolo, teniamo queste parole nello spogliatoio e cose del genere, però insomma non potevi immaginare che andasse così male. Non mollare, Stefanone, non mollare, vogliamo vedere partite come quella di ieri, in cui i valori espressi in campo sono nulli, in cui il capocannoniere della scorsa stagione è inutile e predica nel deserto, e quando la palla tra i piedi non sa cosa fare, neanche se è in area piccola. Vogliamo vedere il pacchetto arretrato affannarsi a correre dietro dei Tete Morente, dei Beriscia e degli Stulic. Vi vogliamo così. Allora, aspetta un attimino, che un po' era prevedibile in questo studio, lo abbiamo detto accennando ad un concetto del tipo: ma se l'hanno cacciato a calci dalla rabbia, no, cosa credete di poter ottenere in Serie A nella Fiorentina? Ottenete un triennale da quasi 10 milioni che adesso non hai idea di come cazzo liberarti di sto problema. Quello credo che sia importante, ovviamente. Se non avesse 3 anni di contratto sarebbe già stato esonerato, probabilmente. Tra la scorsa puntata in cui la Fiorentina perdeva 3-0 con l'Inter e questa puntata in cui la Fiorentina perdeva in casa 1-0 con Lecce, si è dimesso Pradè. Ma sì, hanno fatto prima liberarsi il direttore sportivo piuttosto di Pioli, che è veramente inconcepibile come abbia ancora una panchina, perché ad oggi 11:10 di lunedì 3 novembre 2025 ha incredibilmente ancora una panchina. Io immagino la discussione tra Commisso, che credo abbia anche dei problemi di salute, quindi in questo momento si sente poco anche per quello, Pradè, tu sei quello che mi ha fatto firmare 3 milioni e 2 per 3 anni a Pioli, capisci? O ti demetti o ti sciolgo nell'acido. Lo jobba du Bronx, il disastro culturale del calcio italiano, è in figure come queste, e anche in figure come il capitano della Fiorentina, Ranieri, che mentre esce dall'area al 95esimo sente uno spostamento d'aria alle sue spalle, decide di sgambettarsi da solo. E gli viene da Rapuano concesso un calcio di rigore. Lo dà subito, lo dà senza esitazioni Rapuano. Fortunatamente il VAR funzionava ieri. Allora dicono: guarda, io lo verrei a vedere se fossi in te. In quel momento inizia lo show di quest'uomo trasportato dalle passioni tristi, che decide di fare un casino. E è incredibile come non prenda un rosso, perché abbiamo visto gialli per proteste molto molto molto... Mi prendo le responsabilità di quello che dico per agganciarmi al discorso di Fio. Da qua in poi io voglio proprio vedere cosa combineranno pur di evitare alla Fiorentina grossi problemi verso Pasqua, perché sono sicuro che succederà qualcosa di, se la Fiorentina continua così, vedrai, tu stai a guardare i fuochi d'artificio che guardiamo da qua a Pasqua. Io, se fossi un revisore commercialista di una qualsiasi delle neopromosse delle squadre di bassa classifica di Serie A, andrei dal tabaccaio a comprare tutte le marche da bollo da 16 euro che ci sono e mi controllerei tutti i versamenti fino al secondo decimale. Tu stai a guardare. tu stai a guardare, vediamo. Vedremo. Tra l'altro, visto che parliamo di cose divertenti, nello striscione della curva Fiesole oggi, tra quelli che devono andare a spendere c'è anche il comune di Firenze, perché diventa colpa del sindaco di Firenze. A un certo punto è colpa anche del sindaco. Sembrano veramente i fasci bolognesi che piangono e si cagano addosso e basta. Fantastico, vabbè, ma lasciamo stare. Ricordiamo che 2 anni fa i nostri amici tifosi della Fiorentina ci dissero: avete preso il peggior allenatore d'Italia, certo. Retrocederete. Ecco, questo momentaneamente. Si chiamava Italiano, era stato la Fiorentina poco prima, insultato e cacciato via con ignominia dai tifosi della Fiorentina. Bene, ma questa è un'altra storia. Abbiamo fatto il primo punto, passiamo al secondo punto, la top 5. Allora, abbiamo iniziato con un eroe che nessuno si sarebbe aspettato, in realtà due, perché uno è Stefanone, non mollare Stefanone Pioli, e l'altro è Capitan Ranieri. Un altro eroe che non ti aspetti è quello proprio che il Mingone non si aspettava mai dalla vita, che ti svolta un big match che sembrava una partita di calcio internazionale. Sì, davvero, io devo dire, il Pavlovic visto a Bologna, in Bologna-Milan, l'avevo ritenuto in quel momento specifico il peggior giocatore che avessi visto giocare al Dallara nella storia. Insomma, c'ho una certa età, ne ho visti tanti, e di tristi ne ho visti tanti. Ma veramente non riusciva a camminare, sembrava avesse dei problemi. Invece ieri mi sembra che a correre... Aveva problemi ad ambulare. Ieri invece, se non altro, insegue Leao, cioè corre insieme a Leao. Insomma, voglio dire, provateci voi a tenere il passo, la frequenza di passi sui 100 metri di Leao, voglio dire, insomma, a me il ragazzo, il giocatore non piace, ma è un atleta con contro cazzi, quindi... è cavolo. 70 circa i metri di corsa di Leao, 64 quelli di Pavlovic, perché a un certo punto molla, e il suo svarione proprio di fiato gli permette di essere nella posizione perfetta per ricevere quel filtrante che poi butta in porta alle spalle di Svilar 1-0, e quello è il gol della partita, perché il big match tra Milan e Roma, con quel potenziale offensivo e quel potenziale tecnico e quel QI calcistico lì in campo, lo decide Pavlovic. È uno stranissimo tributo a Galeone da due suoi ex allievi. I suoi giocatori sono stati allenati entrambi da Galeone, Allegri e Gasperini, che sono lì davanti, sono tutti abbastanza contenti, un po' meno Gasperini, che torna marcando virgola nella casella dei punti da questo big match, e con un caso curioso, l'ennesimo, è il secondo in poche settimane, infortunio di un calciatore dopo aver tirato un rigore. Eh sì, uno l'aveva fatto, aveva fatto gol e si è infortunato, De Bruyne. Dybala l'ha sbagliato e si è infortunato sbagliando il rigore. Questo ovviamente porta a una partita che poteva terminare in pareggio, a portare a casa 3 punti per Allegri e Leao. Sappiamo, se vince lo scudetto Allegri e Leao fa una grande stagione, noi abbiamo la cena pagata. Giusto, è vero, questo te lo ricordiamo, perché insomma è giusto. Io ho appena scoperto un posticino, niente male, quindi viva pure di culo, nel caso. Viene da tifare per Allegri e per il Milan. No, adesso questo non riesco a farlo. Sembrava una partita di coppa, parte meglio la Roma, dura 20 minuti e poi viene fuori il Milan con i suoi interpreti di grande qualità e proprio più voglia, forse, nei cambi si fa con quello che c'è. C'è forse un po' poco in panchina nella Roma, e specialmente quando i cambi non sono proprio frutto dell'acume tattico dell'allenatore, ma della contingenza. Cioè, l'infortunio di Dybala racconta di questo. E, 1-0, ma un 1-0 molto europeo. Okay. Sì. E volevo aggiungere che la Roma comunque rimane la miglior difesa, è la Roma di Gasperini, sì, bene sì, rimane la miglior difesa, prima è la Roma, la seconda è il Como. Questo giusto per dare un dato statistico. Sottolineerei la prestazione di Bartezaghi sulla fascia del Milan. Il ragazzo ci sa fare, si sapeva già un po', però insomma ha avuto la fortuna, diciamo così, dell'infortunio di Estupiñán, perché era lui il prescelto, e essendo allungato un po' l'infortunio di Estupiñán, ha avuto quei 3-4, perché la prima partita non aveva brillato, adesso gli hanno dato 2-3 perché c'è solo lui, mi sembra crescita. Bello lucido, anche ieri a un certo punto, credo proprio sul gol, non so se l'azione del gol o poco prima, lui se ha un trattamento di palla nella sua area, riesce a venire fuori in una situazione delicata, molto lucido, poi riesce a ripartire dal basso, molto bravo, bella gamba, bella prestazione. Bella prestazione, quindi insomma questo Milan che continua a essere lì, è a un punto dal primo posto, perché battendo la Roma, fermando la Roma che aveva la possibilità di andare in vetta alla classifica in caso di vittoria contro il Milan, si trova proprio a 21, c'è un bel gruppone, devo dire, per ora il campionato molto molto equilibrato, la classifica è molto corta, Napoli 22, Inter, Milan e Roma 21, poi Bologna, lo ricordiamo, Bologna e Juve, vabbè, Juve a 18. Allora, siccome non c'è il Napoli in questa top 5, il portiere della settimana è Vanja Milinkovic-Savic, che para un rigore da fermo tirato malissimo da Morata. Posso contestare? Posso, per una delle pochissime volte in cui contesto la questione, che secondo me anche Svilar ieri, neanche Magnan, è decisivo sul rigore parato, e soprattutto qualcuno a me mi deve spiegare tecnicamente perché c'è stato lo switch Meret Milinkovic-Savic, che secondo me come bagaglio tecnico c'è l'oceano indiano di differenza a favore dell'italiano. Perché è vero che pare il rigore che tira di merda, posso dire perché io lo tiro praticamente addosso, ma è pure vero che lo procura in una maniera che Meret non farebbe mai, mai. A Meret l'unica cosa che manca per essere considerato un enorme portiere è la cazzimma, il carattere, quello che deve avere il portiere, no? Che deve essere personalità potente. Lui non ce l'ha, è un po', diciamo, molle, anche se brutto, ma come bagaglio tecnico secondo me non c'è gara tra i due. Sì, in questo momento comunque ha una frattura alla mano. Beh, adesso, per un portiere, okay, importante, okay, cioè, okay. Non per un portiere capisco, no, che però a livello di sentimento ho letto molti tifosi napoletani volere questo switch, poi è arrivato l'infortunio che non sapevo, quindi ok, così, perché comunque anche a me è un paro di rigore, niente male. Sì, giocavano uno e una, diciamo, si alternavano tra la Coppa e campionato, adesso sta giocando Milinkovic-Savic perché l'altro è infortunato. Non sapevo dell'infortunio, che però a livello di sentimento è stata molto grossa la bolla Milinkovic-Savic e io non riesco ancora a capire il perché. Però in questo momento dà ragione, diciamo così, a Conte, due rigori parati, insomma... importante, rigore parato importante, perché porta un punto per il Napoli, cioè riesce a chiudere la porta a Stoccolmo, che comunque continua a figurare. Un pareggio a Napoli 0-0, insomma, non è male, con un rigore sbagliato in più, quindi buona partita. Sentimento e bolle nel prossimo punto in top 5, un allenatore che dopo aver girato un po' di qua e un po' di là va in quel posto dove non ti aspetteresti di trovarlo, ci va, dopo l'esonero dato in diretta da questa trasmissione, da questi microfoni settimana scorsa, Spalletti alla prima sulla panchina della Juve, batte 2-1 la Cremonese, ci regala un gol di Vardi, e quando segna Jamie Vardi, quando segna contro la Juve, è un po' come segnasse ognuno di noi. Ma parliamo dei fondamentali tecnico-tattici di Gatti nell'occasione del gol di Vardi, no, parliamone del centrale titolare della Juventus, parliamo. Quello è un episodio glicemico, hai visto come ha svarionato? Ah, che picco glicemico, troppo a palla, non ce l'ha potuta fare, perché fa tutto quello che non deve fare un centrale di terza categoria. Non il centrale della Juventus con non so quante presenze in nazionale, okay? È vero che quello è Jamie Vardy, che pesa tipo 25-30 kg a occhio meno di lui, eppure lo ribalta, cioè se lo mangia come se fosse un bambino di, non so se lo guardate, andate a rivedere, se lo mangia, letteralmente se lo mangia come se fosse un bambino di 6 anni. Questo è il centrale della Juventus. E però siccome è un po' l'eroe che non ti aspetti, il tema portante di questa di questo racconto di top 5, i due marcatori Kostic e Cambiaso tornano a tabellino dopo 4 milioni di anni. Io mi ero scordato che Kostic giocasse a calcio di lavoro, personalmente. Cambiaso invece, dopo essere stato il miglior giocatore di movimento della Juve negli ultimi 3 anni, il più ricorrente, si era molto appannato ed era uscito tanto dagli schemi, dalla formula di calcio proposta da Tudor, e prende le prime pagine della narrazione mainstream. Kopminers schierato libero, c'è più tempo per Kopminers libero che per il Bologna 18 punti, affascinante. È affascinante perché, ed è imbarazzante per i giornalisti, perché in realtà Kopminers comincia la carriera in quella posizione, perché io personalmente l'ho visto giocare tantissime partite in quella posizione nella Z, veri? Cioè se tu giornalista non hai idea della materia di cui tratti, poi fa se brutte figure qua. Perché mo, come dite voi, è diventata libero. In realtà no, perché comincia lì, e anzi comincia a diventare Coop Miners proprio in quella posizione, inanellando prestazioni in quelle posizioni. Una cosa su Cremonese Juve molto importante: è bruttissime entrambe le divise. Mi fermo un attimo su quella della Juve, che è qualcosa di... ci sono tipo 4 colori nella stessa maglia, nessuno c'entra un cazzo con la storia della Juventus. Sottolineiamo un attimo questa faccenda. la mia è una battaglia per la salvaguardia del genere umano. Perché? Perché noi siamo diventati quello che siamo, cioè la razza dominante, perché ci siamo adattati meglio all'ambiente circostante rispetto alle altre. Ora, se però abituiamo gli occhi alla monnezza, cioè al brutto, poi dopo cominci a ragionare brutto e poi dopo diventiamo persone brutte. Quindi, raga, fate delle cazzo di maglie decenti. Allora, questa è, però bella quella di Suzuki. Molto bella quella di Suzuki. E la giacchetta, il jacket del Bologna è davvero spaziale. Bene, bene. 18 punti della Juve, 14 quelli della Cremonese, che comunque è ancora là, che se la battaglia. Qualcuno ironizzava, forse il piano della Fiorentina è quello che la Cremonese si salvi a gennaio, così può prendere Davide Nicola. Potrebbe essere un'idea. Ardito, però coraggioso, mi piace. Bella idea. Bella idea, altri eroi irraccontabili. Ma voi l'avreste mai detto che la terra promessa stava a Udine? Zaniolo no, neanche io, però neanche Zaniolo, che è il match winner, game changer della partita, anche quella con maglie, parliamone. Guarda, me l'hai appena strappata dalla bocca, non dico nulla perché livelli talmente brutti, talmente bassi che davvero, guarda, cioè non lasciamo perdere, parliamo di Zaniolo che crede di essere Cristiano Ronaldo nell'esultanza. Zaniolo, con una media di 4 gol a stagione in carriera, è comunque molto più giovane di me, esulta come un pazzo per un gol da 3 punti. Oh, bravo lui, bisogna riconoscere comunque un gol da 3 punti contro un Atalanta difficile da leggere. È difficile da leggere anche l'Udinese, ma è 20 anni che è difficile da leggere l'Udinese. Come fai ad avere delle aspettative? Sì, anche perché da leggere è proprio difficile, nel senso che hanno dei nomi, i giocatori sempre nuovi e complessi, quindi è veramente difficile da leggerla anche la formazione solo dell'Udinese. Udinese che però, quando la dai per spacciata, vince. Quando dice oh, sta andando bene, perde 4-0, cioè è proprio incomprensibile. L'Atalanta non vince da, cioè ha anellato anche lì tanti pareggi, tante adesso anche sconfitte. Stranamente Juric non sta andando bene a Bergamo. Ma anche qui lo stesso discorso per Pioli, ma se vai a prendere uno che l'anno scorso ha stabilito tutti i record negativi possibili per un allenatore in una stagione, cioè ce l'ha tutti lui, cosa davvero davvero cosa credi di poter ottenere? Ma lui era il vice di Gasperini, quindi tra l'altro le squadre di Juric, anche Thiago Motta potevi prendere. Sì, sicuramente meglio delle due, meglio Thiago Motta sicuramente, anche se credo che Thiago Motta voglia prendere i soldi che gli spettano intanto. Va bene, glieli spillasse tutti, fa benissimo, lui vuole, sta fermo finché alla fine si è visto. Alla fine si è visto. Sì. Chi ha sostituito lui ha cambiato ed è stato esonerato pure lui, quindi evidentemente non è proprio solo colpa, non è stata solo colpa di Thiago Motta, che probabilmente avrebbe raggiunto gli stessi risultati di Tudor. No, è impossibile dirlo adesso, secondo me no, però ormai storia impossibile parlare, insomma, è andata così. Comunque il percorso della Juve, no? C'era questo meme che girava in rete, buona partenza, qualche pareggio, infortunio di Bremer, lotta per il quarto posto. Questo è più o meno, adesso siamo arrivati al momento dell'infortunio di Bremer, quindi lotta per il quarto posto, anche se Spalletti ha detto noi puntiamo lo scudetto, ma è ovvio che deve di Spallettone. Cosa vuoi che dica? In questo momento Spallettone è forte dei suoi 18 punti classifica, 3 punti davanti a quelli dell'Udinese di Costa Rugnac, che è a sua volta davanti all'Atalanta che marca 13 punti. Sì, l'Atalanta, insomma, dopo la Fiorentina, forse una delle piccole delusioni. Per Spalletti vale il discorso fatto per la Fiorentina e per l'Atalanta con Pioli e Juric, ma se l'ultima esperienza lavorativa di quest'uomo fa schifo, ci ha fatto vergognare come italiani proprio. No, davvero, è il concetto che io non riesco a capire. Ma se questi sono 2-3 anni che proprio non trovano la strada di casa, cosa credete che possano ancora fare? Poi magari adesso vince lo scudetto, per carità, però... Sì, Ancelotti fa schifo con Reale, gli danno il Brasile e che fa il Brasile? Perde in amichevole col Giappone tipo 3-2 dopo essere stato in vantaggio 2-0. Cioè, è quello che la meritocrazia vale per tutti o ci sono uomini come Spalletti, Pioli, Allegri, Ancelotti che a prescindere da quello che facciano panchine come se piovessero, bravo. Boh, beati loro, vi devo dire. Sono invidioso, che vi devo. Poi invidioso. Secondo me si apre la strada procuratore di Juric, l'attore di terribili segreti che tengono in scacco la Serie A. Mi piace molto. Può essere l'idea, potrebbe essere. Chissà. Velocemente siamo un po' in ritardo, oh. Quindi quanti punti mancano? Ne manca solo uno. Andiamo a chiudere questa top 5 con una cosa ridondante che abbiamo detto tante volte da questi microfoni. Dobbiamo insegnare ai giovani la gioia dello scaldabagno, la gioia dello smaltimento dell'elettrodomestico usato tirandogli fortissimo, calciare il pallone forte, che quando calci il pallone senti il rumore di quando dai i pugni allo scaldabagno. Se tu sei giovane di nome di fatto, sei Giovane Sant'Anna da nascimento e sei mancino, te tiri forte col destro perché sei matto, perché sei coraggioso, perché lo puoi fare. E allora il grande gol di Giovane del Verona, che perderà 2-1 allo scadere con un autogol più che sfortunato. Quella faccia regista, più culo che slip, proprio, guarda. Cioè, bellissima immagine, guarda, bellissima immagine. Che dire, non ha demeritato un punto il Verona, ci poteva stare. Certo è che quell'autogol è veramente la sfiga suprema massima totale, perché vedendolo anche a velocità normale capisci che non è gol di Esposito mai nella vita, c'è qualcosa che non va, e quel difensore del Verona, Frese, è proprio lì nel posto sbagliato. Com'era nel posto giusto la coppia Gift Orban Giovane. Sai che mi infogliano quei due, la Orban e Giovane, davvero una coppia da matti, bella, veloce, potente. Due giocatori tecnici, veloci, che tirano tantissimo in porta, hanno proprio la fotta di tirare in porta. Purtroppo i cambi del Verona non sono all'altezza di, però quando giocano insieme possono fare male, e il gol di Giovane è molto bello e merita la copertina, diciamo, la retrocopertina di questa top 5. Al volo, se lo riguardate un attimo nella vostra mente, quale gol vi ricorda? Almeno il primo movimento. Oddio, detto così mi spiazzi abbastanza. È diventato leggendario il gol di Messi contro il Bayern Monaco, quando sdraia Boateng, facendo finta sinistro e poi destro. Il movimento che fa lui è pressoché identico. Poi c'è, cioè, la differenza è che il difensore non va per Prati, e poi Messi chiuse con un pallonetto dolcissimo, questo invece tira appunto il famoso boiler sotto l'incrocio, ma il movimento che fa è pressoché identico. Naturalmente non c'è nessun tipo di paragone tra Messi e ci mancherebbe pure, ma il movimento che fa è uguale. Bene, la pausa lo andremo a rivedere per vedere appunto le analogie tra i due movimenti. Terza parte del programma. Piace sto mix. Terza parte del programma, dicevamo, quella dedicata al calcio internazionale. Infatti arriva la nostra Basetta che ci accompagna. Cose interessanti in giro per l'Europa, diciamo così, dove stiamo seguendo i vari campionati che seguiamo. Da dove vuoi partire, caro Fio? Ma così ci togliamo subito il dente, scomodiamo subito il nostro Simone Maloni e partiamo dal suo campionato preferito, la Premier League. Sì, dai, facciamo così. Premier League, appunto, che ha giocato, intanto si è giocato anche i 128esimi di finale di FA Cup. Che bene. Ve lo aggiungo, lo dico, perché sono i 128esimi dove ancora le squadre di Premier League non entrano, ma tutte le altre sì, che erano partite dai 1500. L'unica cosa paragonabile alla FA Cup nel mondo calcio sono i playoff di Serie C. Sì, è vero. Nostri qua in Italia. Avvicinabile a FA Cup è l'unica cosa, sì. L'unica cosa più lunga, diciamo, dei playoff di Serie C è la FA Cup. Comunque, quindi, insomma, ci sono tante squadrette che hanno vinto, cioè 128esimi, quindi, insomma, ci sono un po' di partite che hanno vinto, e dopo vedremo le varie sfide, insomma, su quello seguiremo. Però Premier League, sta crescendo il City dopo un inizio un po'. Sta crescendo il City? No, non sta crescendo, sta calando gli avversari. No, dopo sono sempre io. Io ogni tanto mi dico, Simo, però la devi smettere, dai una possibilità alla Premier, dai un'occhiata agli highlights. Dico, ok, mi vado a vedere il City di Pep, secondo il Bournemouth, no? Squadra rivelazione, va forte. Una miseria difensiva. Andate a vedere i gol che prende il Bournemouth. Ho fatto degli screen, fermati. Che in radio sono utilissimi. La chiacchiera con te, adesso te li faccio vedere. E sono dei gol imbarazzanti. Guarda la posizione di. Guarda, sul primo gol c'è il City a palla a centrocampo. La linea del Bournemouth è a 4, rinchiusa in 6 metri in diagonale. E il più vicino è a 2 metri dalla linea del centrocampo. in avanti. E Haaland, raga, ve la sto facendo guardare, Haaland è questo, ha tipo 95 metri di campo deserti davanti a lui, indovina chi va la palla. E beh, tra l'altro è uno che corre anche piano. Tra l'altro è Haaland, cioè sì. Non è che c'ero io. Ma va bene, bello, bello. No, aspetta, dopo io sono gentile, ma il terzo gol è identico, guardate qua, cioè Haaland in mezzo alla linea 4, larghissima, il più vicino è a 2 metri dall'altro, e di nuovo 85 metri di campo vuoti. Nel nulla, raga, non vi può piacere sta roba, dai, adesso seriamente. Sembra l'applicazione della tattica del fuorigioco fatta dagli esordienti, cioè è affascinante. Comunque, adesso ho capito, si vuole al campo di Oli e Benji, perché è a centrocampo, ne ha 85, sì, vuol dire sì. Che sono i campi quelli di Oli e Benji che durano 200, 300. Che la Premier è tutta big, no? È tutta big. No, adesso mi piace esagerare, però io vi invito ad andare a rivedere, adesso ve lo fate vedere a voi, sarete sicuri. Non è presentabile una cosa del genere. Mi rendo conto che è spettacolare perché ogni palla è un gol, ci crede, è così, però raga, cioè, così non è, così non ci siamo proprio. Doppietta di Haaland, che era un po' che non segnava, quindi ne fa due, poveretto, c'ha ragione anche lui. Ma 1500 gol e ci credo, che ma almeno 2000 ne deve fare. Venga a giocare in Italia, ma vediamo, no, ci sono 9 gol in una giornata, voglio vedere quanti ne puoi fare. E chiude le 5-5 del Torino, ti voglio vedere, ragazzi, ti voglio vedere. Chiude le marcature ora. Intanto c'è spazio anche per un gol del Barmouth di Adams per il momentaneo 1-1 su Paperona di Donnarumma. È vero, ogni tanto Donnarumma, lo sappiamo, ce l'ha un po', per fortuna non è stata diciamo decisiva per il risultato. Dicevo, City che è in crescita, ha soli 6 punti dall'Arsenal, ragazzi, stiamo parlando di 6 punti di vantaggio per il nostro per i nostri Gunners. Gyökeres e Declan Rice vince 2-0 a Burnley sul campo scomodissimo campo Claret & Blue, e vale la vetta sull'Italia con un buon margine, anche perché dietro chi aveva già rallentato magari si riprende, ma qualcuno comunque inizia adesso a rallentare, insomma un bel casino dietro, non, nessuno sembra avere la tempra per stargli dietro attaccato, ecco, diciamo. Per esempio, al netto delle difficoltà che abbiamo già visto avere, vince 2-0 il Liverpool in casa contro l'Aston Villa, con Momo Salah, 250 gol in maglia rossa. Sì, andate a vedere il gol che team, andateci. Perché poi, ragazzi, cioè, mi pare che l'unico che guarda la Premier sono io qua alla fine. Cioè, è un gol che io vedo in Serie C, probabilmente il mega paperone del sistema difensivo avversario. Salah, porta vuota, deve soltanto appoggiare il passaggio del difensore avversario, non un filtrante di, che cazzo ne so, Wills dopo una mangia, no, proprio pa. La Premier League, come gioca la Premier League. Allora, per gli appassionati di good design, bad design, quel ragazzo coi capelli e la barba impresentabili che non si ritagliava se non facevano 5 vittorie consecutive, i rossi di Manchester, continuerà a essere impresentabile perché si ferma la striscia del Manchester United sul campo del Nottingham Forest, segna anche Savona. Vi ricordate Savona? Proprio lui. Sì, segna anche Savona, stava per vincere il duomo, stava per farla, e invece poi 2-2 la riprende Diallo a fine partita. A fine partita, quindi si stoppa, erano 3 già le vittorie consecutive del Manchester United, sarebbe stata la quarta, quindi si avvicinava al barbiere, ma invece niente. No more barbershop. No, no more. Assolutamente. C'è una, anche lì, carino, ho visto in rete i racconti di chi non, cioè di come sarebbero i tifosi delle varie squadre se scegliessero la stessa cosa. C'è una squadra che non so, sarà 3 anni che non vincono 5 partite consecutive, e quindi insomma immagino appunto il look del tifoso eventuale che potrebbe fare questa roba. Per quanto riguarda appunto il Nottingham Forest, che era messo malissimo e ha mandato via Postecoglou, il nostro Postecoglou che era già subentrato, quindi già il terzo allenatore che cambia, quindi evidentemente qualcosa non sta andando. Dopo una buona stagione l'anno scorso, era una di quelle che si era anche giocato la Champions League, finendo poi in Europa League, tra l'altro con acquisti importanti, tra i tanti anche Ndoye. Nostro Ndoye in questo momento è penultimo e ha 6 punti, quindi già 4 di punti dalla salvezza per quanto riguarda appunto la Premier League. Ultimissimi, direi ultimissimi in Europa, sono i Wolverhampton, i Wolves, che hanno 2 punti, solo 2 punti. Che ricordiamo sono i stessi che dovrebbe avere la Fiorentina, bla bla bla bla bla. Dovrebbe essere pari, lo dicono spesso quelli del Wolves, i tifosi del Wolves, ho sentito già dirlo più volte, siamo ultimi ma anche la Fiorentina. Dicono anche we have 2 points but we have no Ranieri. No Ranieri, no Ranieri, zen. 7 gol fatti, 22 subiti per le prime 10 partite. Niente, è un bel prodotto della Premier League questo qui, niente male. Ti piace, niente, no? Sì, sì. Ha un'interpretazione della media inglese comunque. Sì, un po' così, un po' fatta in un certo modo. Dove ci spostiamo? Abbiamo chiuso con la Premier League. Andiamo in Spagna. Andiamo in Spagna, hai seguito un po' della giornata. Ho provato, di sfuggito, ho visto qualcosa del Real, Barcellona non ho fatto in tempo. Barcellona ha vinto, sì. Ha vinto con abbastanza facilità. E, per quanto riguarda le nostre squadre basket, quest'anno non è proprio la stagione, non è la stagione buona. E, in questo momento diciamo il Real Madrid rimane ampiamente primo in classifica, 30 punti con 5 già di vantaggio sul Barcellona, rimane il Villarreal ancora al terzo posto ed è insomma, ovviamente un'ottima partenza per il sottomarino giallo che è davanti all'Atletico Madrid, la terza diciamo così classica del campionato spagnolo. Bisogna scendere un po' per trovare le nostre squadre diciamo così basche. L'Atletico Bilbao è undicesimo, poco sopra c'è il Rayo Vallecano, altra squadra a noi simpatica. Per quanto riguarda la Real Sociedad siamo al 14° posto e subito dietro lo Osasuna. Real Sociedad capitalizza la vittoria 3-2 nel derby tra le basche contro l'Athletic Bilbao e in un momento grande fratellanza hanno deciso di dare punti a chi ne aveva più bisogno, secondo me. Sì, era ultima tra le basche, era ultima e con questa vittoria supera lo Osasuna e rientra in classifica al 14° posto. Abbiamo già accennato della vittoria 3-1 del Barcellona con l'Elche, c'è un caso, la mini Amal, che pare affetto da una pubalgia infinita, incurabile, da quando ha iniziato a farsi le coccoline con la sua bella. Ah sì? Sì, ha scoperto dei suoi superpoteri che non aveva e come diceva lo poeta torneremo a farci fare l'amore dalle infermiere. È così, c'ha quella pubalgia lì, la mini Amal. Quella è fastidiosa tanto. Bisogna superarla, quella è difficile, difficile da superare. È giovane il ragazzo, magari ci riesce. Quello è vero, giovane è vero. 17, è ancora giovane. Un ragazzino davvero. Rimane un ragazzino. E comunque ha bollato. Ah, pure con la pubalgia, dici, il gol riesce a fare. Per quanto riguarda invece i vari campionati, andiamo a vedere anche la Germania, dove c'è un Bayern Trita Sassi che ha raggiunto il record, ha superato il record del Milan di 14 vittorie consecutive in tutte le competizioni e continua a farlo battendo 3-0 il Leverkusen, quindi nettamente anche il Leverkusen. La cosa strana è che non ha segnato Kane, di cui leggo, non ho capito come sia possibile questa notizia, ma si parla di un interessamento del Barcellona per l'anno prossimo. Perché? Ah, ma non era in campo, ecco perché non l'ha segnato. Solo per quello, non giocava. La news è quella lì su Kane. Potrebbe, dopo aver preso Lewandowski, andare a appoggiarsi su Kane, dopo troverebbe un'altra squadra di cui è difficile vincere. Molto difficile, vedrà che riuscirà a fare qualcosa di grosso anche lì, vedrà. Ci saranno delle sorprese, Rolino di marcia impressionante perché in 9 partite fa 27 punti, posta piena, 33 gol fatti e solo 4 subiti. Questo è il Bayern Monaco, diciamo che il campionato sembra ben indirizzato. Ottima partita anche del mio Colonia che vince 4-1 contro l'Hamburgo, Hamburgo che finisce in 9 la partita, e, tutto per doppie ammonizioni, totale di ammonizioni date veramente un sacco, veramente tante, il mio Colonia comunque è partito molto bene, ancora è al 7° posto in questo momento, in piena lotta per un posto in Conference o in Europa League, che già sarebbe un grande risultato. Al 2° posto dietro al Bayern c'è il Lipsia che non sta andando neanche male, ha 22 punti, se fosse una situazione normale, tipo in Italia con 22 punti sei in testa, per dire. però solo a meno 5 dalla vetta, perché c'è il Bayern. RB Leipzig che vince la sua sfida contro lo Stoccarda. Al terzo posto il Dortmund e poi proprio lo Stoccarda. Questo è, anche il Dortmund vince la sua sfida. Segneremo che si riprende un po' l'altro Borussia, il Borussia Mönchengladbach, che va a vincere a domicilio sul campo del San Paoli. Si riprende in classifica, era ultimissima la settimana scorsa. Volevo farvi notare una cosa che potrebbe essere interessante invece nel campionato scozzese. Già l'avevamo accennato nelle puntate scorse. In questo momento è vero che ha una partita in più, ma gli Hearts of Midlothian hanno 9 punti di vantaggio sul Celtic, che è secondo. Gli Hearts sono quelli che con gli Ibs, con l'Hibernian, replicano il derby di Glasgow a Edimburgo. Interessante, è un bel classicone anche quello. È interessante anche perché giocò anche col Bologna in Coppa UEFA di qualche tempo fa, l'Hearts of Midlothian. La cosa interessante appunto è che credo siano 40 o 50 anni, adesso non mi ricordo esattamente quando, che lo scudetto in Scozia lo vincono o Celtic o Rangers, quindi sempre Glasgow. Lo so che può sembrare paradossale e comico quello che vi sto per dire, ma c'è un motivo per cui gli Hearts of Midlothian siano in testa così prepotentemente in Scozia. Indovinate qual è? La San Benedettese. E in che maniera? Gli Hearts of Midlothian hanno acquistato il catenino di Saba Kerjota, la nostra mega star dell'anno scorso, vi ricorderete, in Serie D, esterno d'attacco puro, driblomane, che segna, e casualmente dopo 40 anni è dovuto succedere che una squadra scozzese acquistasse un titolarissimo della Samb all'epoca in Serie D per andare a dominare il campionato scozzese. Voi non ci crederete, è tutto documentabile, andate a controllare. Cioè tu dici anche l'Aberdeen di Sir Alex Ferguson, che è l'ultima squadra a vincere lo scudetto, aveva preso un giocatore della Samb Benedettese? Non lo so, ma vado a controllare. Probabilmente sì. Oppure Sir Alex Ferguson era venuto in vacanza a San Benedetto. Già può darsi, anche perché da quelle parti ci vive già Maurizio Sarri, vive d'acqua viva. Cioè è zona, ragazzi, li abbiamo ceduto quest'anno per quasi 500-600 mila dopo un campionato stellare della Serie D italiana, e incredibilmente adesso non so il minutaggio, sapevo che era partito dalla panca, magari guadagnano il minutaggio, so solo che sono davvero davvero davvero incredibilmente felice di questa cosa qua. Grande Saba, grande. Ma tu te le immagini una partita Giaguaro sotto l'ombrellone, Sir Alex Ferguson, Diego Bianchi, Maurizio Sarri, Alessandro Orsini e Simone Madoni? Ma sarebbe bello, E adesso continuerete a non credere ad un'altra cosa che sto per dire. Oggi è giornata. Alessandro Orsini, io lo conosco personalmente e anche abbastanza bene, perché la famiglia romana d'estate veniva in vacanza dalle nostre parti, esattamente dietro la pizzeria che gestivo con la mia famiglia, e loro venivano ogni sera a mangiare la pizza col fratello musicista, tra l'altro, polistrumentista molto bravo, il fratellino. E quindi lo conosco. È plausibile. Comunque sta di fatto con gli Hearts of Midlothian, li seguiremo questa sfida, perché è comunque interessante, no? Il Rangers, tra l'altro, erano stati squalificati, cioè erano falliti, sono dovuti ripartire. Nel frattempo ha sempre vinto il Celtic, perché c'era solo il Celtic nel campionato scozzese. Vediamo, è appena iniziato, è all'11ª giornata, quindi ci vuole ancora, però intanto abbiamo qualcosa da seguire anche lì. Per quanto riguarda gli altri campionati, anche il belga ci regala comunque sempre tante soddisfazioni, in particolar modo la vittoria dello Standard Liegi. Alle standard. Non esagerare, una vittoria. Vabbè, una vittorietta dello Standard Liegi serve per piazzarsi alla metà del girone dove succedono le cose. Era iniziata la stagione non benissimo, si ballava tra la zona retrocessiva e la playoff conference, diciamo così, e invece sono in questo momento al 9° posto, lì in mezzo dove succedono le cose. Un po' in calo il Mechelen, che è ancora nella top 6, quindi in questo momento sarebbe ancora potrebbe giocarsi lo scudetto, ma perde 3-1 contro l'Anderlecht. Vabbè, e nobile, quindi... no, la super nobile del Belgio, la Anderlecht da città. La Juventus del, sì, del Belgio, in un certo senso, è terza, tra l'altro. Segnaliamo che in coda c'è il Dender che ha 4 punti, ma sono tutti suoi. Tutti suoi? Ah, quindi 4 punti come la Fiorentina, ma tutti meritati. Ma tutti loro, fatti tutti proprio loro. Fatti. Esatto, tra l'altro, vabbè, loro hanno giocato 12 partite, sappiamo che è iniziato prestissimo il campionato belga, il fantacalcio belga si fa, il mercato si fa a luglio perché inizia prestissimo il campionato, e comunque Dender ha 4 punti, ha 7 punti sulla penultima, ma tanto c'è il girone salvezza, ecco, e so, quindi si finisce, finisce. No, no, nel senso lo, dopo si azzera tutto, ecco. Sì, lo sappiamo, l'entropia dominante non del campionato belga, della nazione proprio belga, prevede che all'interno della nazione belga, esattamente come in Gargantua e nei Buchi Neri, esistano leggi fisiche a noi non conosciute. Quindi hanno scoperto quello che succede là dentro, noi non abbiamo idea di quello che sia. Eh sì, quindi insomma dobbiamo guardare, leggi, guardare, basta. Esatto, raccontare quello che è accaduto. Quindi chiudiamo anche col Belgio. In Francia il Paris Saint-Germain ha vinto, quindi non so se possiamo parlarne. C'è un po' il Marsiglia che si riprende dopo aver perso la scorsa settimana e ha 2 punti, comunque il campionato ancora aperto. Purtroppo perde lo Strasburgo, che è un progetto molto interessante di quest'anno. C'è Panichelli, che era un mio pallino per l'esterno sinistro del Bologna, vabbè, ma vabbè. È andata, adesso costerà almeno 70-80 milioni se continua così. Cresciuto abbastanza, sì, Strasburgo che perde 4-1 con Rennes, era terzo in classifica la settimana scorsa, lo troviamo al 7° posto perché le altre sono cresciute. Direi che abbiamo concluso la parte dedicata al calcio internazionale, si può, no, c'è ancora una cosa, c'è la Champions League, ma c'è anche la Serie C, quindi decidete voi da quale C iniziare. Per ordine di importanza, partiamo da quello più importante, quindi il girone B della Serie C, raga, è butta male, è un mese di sconfitte, quella di ieri è la quarta sconfitta consecutiva, se escludiamo il derby di Coppa Italia, e a proposito del derby, sono state 72 ore che probabilmente ci hanno fatto più male che bene a livello di proprio energie emotive. Io non credo tanto nel discorso energie emotive, psichiche, cioè sì, ma fino a un certo punto. La verità è che ieri Guidonia Montecelio, squadra laziale della città di Roma, è la squadra più bella che ho visto dall'inizio di stagione, e parlo di tutti i campionati, non soltanto la Serie C che seguo. Bellissima, bellissima in fase di possesso basso, in fase di transizione offensiva, veloci, ordinatissimi, grande qualità, soprattutto in gente come Mastrantonio, veramente il giocatore che ieri mi ha sorpreso tanto. E niente, sconfitto sul campo per la prima volta, siamo andati sotto a livello proprio di gioco, ok, di risultato sempre, perdiamo sempre di misura, tutte le nostre sconfitte sono sempre di un gol di differenza, e comincia a essere purtroppo per noi abituale a sbagliare i calci di rigore, e che anche ieri lo sbagliamo, lo tiriamo male con ieri lo sbaglia Baffo, l'altra volta l'aveva sbagliato Eusebi. Ora eviterei di fare un dramma, anche se 4 sconfitte di fila cominciano a essere tante, perché comunque il materiale c'è. La squadra c'è, la squadra ha fatto l'ultima ottima prestazione anche nella sconfitta del derby di domenica scorsa, avevi comunque giocato meglio tu in 10, cioè, quindi non mi farei prendere dal, come si dice, dal frenesismo di dover stravolgere tutto. La squadra ieri ha giocato un po' peggio del solito, però comunque c'è, gira male questo periodo perché non riusciamo a concretizzare, prendiamo sempre quei gol tipo all'85esimo, al 90esimo, messe là. Dispiace perché ormai Riviera delle Palme è stato già violato tipo 4 volte, ed è un peccato perché è uno stadio che ti garantisce, a te che indossi la maglia rosso blu, quegli 8-9 mila persone a partita, che non so quanta gente in Serie C si può permettere. Dispiace perché la squadra comunque c'è, il periodo è quello che è, bisogna incredibilmente fare uno step grandissimo, soprattutto in fase offensiva, e quindi raga, vi volevo bene, però è anche ora che sarebbe già il caso di iniziare la prossima settimana. Si gioca col Campobasso, a Campobasso, Campobasso che è proprio sopra alla San Benedettese, in questo momento sarebbe l'ultima qualificata per i playoff. Campobasso che le ha buscate dalla capolista Arezzo, ne ha prese 5, ma la vera notizia al vertice è che perde l'Ascoli a Ravenna. Sfida diretta. Ha tipo il 90esimo e il gol dell'1-0 lo segna Stefano Okaka, quel Stefano Okaka lì. Sì, che ha ripreso a Ravenna appunto a giocare, dopo mi sa che si era fermato, no? era, si era fermato, ha ripreso a Ravenna ed è il secondo gol che fa, credo. Sì, consecutivo, cioè nelle ultime due giornate prende anche il giallo per l'esultanza, clamoroso. Clamoroso Stefano Neocacca. Grande Stefano Neocacca, te lo meriti. Chiudiamo velocemente con la Champions League, con le coppe, diciamo così, cioè c'è la Champions, ma anche l'Europa League che non interessa di più. Il Bologna giocherà col Brann, bisogna portare a casa 3 punti se vuoi giocarti il passaggio del turno. Per quanto riguarda le italiane, velocemente, torna a Napoli l'Eintracht di Francoforte, ricordiamo ordine pubblico a 3.000 quella volta lì, sarà la prima partita del martedì pomeriggio, alle 21 sempre di martedì, la Juve ospita lo Sporting Lisbona. E non è una squadra scomoda, squadra scomoda. No, una bella rognetta da fronte. Vedremo in casa, è vero che in casa sarà la seconda di Spalletti, però insomma è importante capire se questo risveglio, 2 vittorie consecutive per la Juve tra cioè post Tudor, diciamo così, la prima con il tutor dell'Under 23 e la seconda con Spalletti. Il mercoledì invece l'Inter ospita il Kairat Almaty dal Kazakistan, partita di un discreto livello di esotismo, mentre invece l'Atalanta va a giocarsela al Velodroma Marsiglia. Attenzione. Attenzione, questo è questa Atalanta che non sta brillando. Cariati, che è quella che è riuscita a fare nel sorteggio, l'hanno messo con Lisbona, credo, o lo Sporting, adesso non mi ricordo. Penso lo Sporting, è la trasferta più lunga in assoluto, sì, perché loro sono praticamente. È la squadra, credo, occidentale più est, adesso non ho capito bene qualcosa del genere. Insomma, devi camminare tanto. Era più vicino alla Cina che a Lisbona, una cosa del genere. Quindi la roba interessante, mi sa che il nostro regista non andrà a vedere la partita perché insomma non ha quella appeal. In Europa League, oltre al Bologna, alle 21 la Roma va a giocarsela contro i Rangers a Glasgow. Partita da tenere d'occhio, l'Aston Villa ospita il Maccabi di Tel Aviv. E volevo dare un abbracciatone ai nostri amici Brummi là per di là. Ok, va bene. E questa è la situazione. A questo punto c'è la pubblicità e poi l'ultima parte di Caffè Paglia. Ultima parte di Caffè Paglia di quest'oggi, fritto misto di sport, ce ne sono tante. È funzionato benissimo l'intervento di Burt della settimana scorsa, chirurgico, quasi perfetto. La Virtus ha perso 2 partite su 3, le 2 di Eurolega le ha perse entrambe, Zalgiris e Bayern Monaco. Ha vinto contro Trento, non si è riuscito a fare la prepa, forse era chiedere troppo alla settimana cestistica. Vince anche la Fortitudo ieri a Pistoia, là dove si ritorna. Ovviamente la Rai ha voluto fare la diretta da Pistoia dopo quello che è successo nella trasferta di Rieti, e quindi la morte dell'autista del pullman dei tifosi di Pistoia che tornava appunto da Rieti. Fortitudo che magari non gioca un basket bellissimo, ma trova intanto un Sarto veramente chirurgico, 8 su 11 da 3 punti, mi sembra un bel risultato. Stavo pedinando tenendo conto che gli altri nessuno faceva canestro, quindi lui proprio ha dominato la situazione. E in questo momento la Fortitudo è comunque seconda insieme a un altro po' di squadre, dietro alla VL Pesaro. È nel mucchio delle 5 seconde in questa classifica temporanea e parziale di un campionato che si preannuncia lunghissimo. È comunque lunghissimo, quindi insomma intanto però sei nelle parti che contano. Ricordiamo la prima squadra della 2 va direttamente in A1, le altre fanno un lunghissimo playoff secondo praticamente solo quello della Serie C, appunto, che conosciamo. Per quanto riguarda il nostro buon Simone, ne avevamo parlato prima. Per quanto riguarda il basket, appunto, insomma, la Virtus che è in questo momento in vetta alla classifica, perché la capolista Brescia perde e quindi viene raggiunta, perde contro Trapani che comunque è partita molto bene ma aveva dei punti di penalizzazione e quindi non si trova nelle prime posizioni solo per quello. Trapani che forse non sarà più Trapani. Beh, è affascinante questa roba, lì bisogna stare attenti a quel ragazzo perché si è anche candidato sindaco con una lista civica dichiaratamente populista in cui si parla così, cioè il riferimento che Antonini è un fenomeno e gli altri tutti nella storia sono tutti stati scarsi, tranne Fidel, e lui, a lui piace Fidel, lui sì. Dice in pubblico che gli piace Fidel. Sì, molto affascinante questa vicenda. È un personaggio strano. Comunque l'abbiamo insomma schivato, poteva essere arrivare anche a San Benedetto, e quindi in realtà non è il tema, è non ha trovato l'accordo col comune di Trapani per la gestione del Palazzo dello Sport, e quindi ha detto che le prossime partite Trapani giocherà in giro per la Sicilia, farà un tour in Sicilia, quando gioca in casa gioca non so a Catania, a non so dove possono essere tanti palazzetti, Messina forse. È molto facile muoversi in Sicilia, tra l'altro segnalo che c'è a 180 km da Trapani il Palamoncada di Porto Empedocle, che non è male, che non è, impianto. È un bel impianto, potrebbero andare in Sicilia dentro, insomma, appunto più che il ponte farei dei treni o strade un po' più comode, ma però vabbè, questo è altri discorsi, non vorrei passare per uno della Corte dei Conti, ecco, che non so, non lo so come si sono permessi quei bruti che fanno i conti, che no, non si può, non si può fare, mannaggia veramente, situazione incredibile. Per quanto riguarda gli sport americani, tanto è iniziata l'NBA già da un po', e ne abbiamo parlato ovviamente all'inizio, no, ancora le calde arroste in questo caso sono molto lontane, tanto che ad esempio in testa ci sono i Chicago Bulls, per dire, un po' a sorpresa, hanno perso questa notte la prima dopo 5 vittorie consecutive, adesso sono 5 vinte, una persa, stiamo dicendo in testa a est ovviamente, perché a ovest domina Oklahoma che punta al bis. Sì, giovanissimi, super futuribili. C'è però da spendere due parole su quello che in realtà è un argomento che tutti noi stiamo aspettando da 2-3 anni a sta parte, perché il ragazzino francese pare avrebbe preso la strada che lo porterà ad essere quello che noi immaginiamo sarà nel prime della sua forza fisica, perché quello che sta facendo Wembanyama è grosso sì, anche lui stanotte ha avuto la prima stecca, ha giocato la prima partita sotto il livello diciamo altissimo, si è fermato a 9 punti e non a caso San Antonio ha perso la prima partita, però in effetti nelle altre partite mi sembra che stia dimostrando di essere in grande forma, come sta dimostrando di essere in grande forma anche Doncic, arrivato all'inizio della stagione dimagrito, con un fisico molto allenato, uno dei temi era un po' la pancetta che aveva, no? In certe situazioni sta viaggiando intorno ai 40 punti di media, mi sembra abbastanza in forma il buon Doncic. Per quanto riguarda giovani del basket, si sta mettendo in luce un 14enne nella squadra della Barcellona, Dabone si chiama, è gigantesco, dicono già potrebbe essere il nuovo Wembanyama, quindi ancora Wembanyama deve essere quello che è, ma sta nascendo. Barcellona è nota per avere comunque in generale in qualunque sport un occhio molto legato al mondo giovanile, alla costruzione della squadra. C'è questo 14enne di 2,15 metri, una cosa del genere, 14 anni, e fa delle cose importanti, ha esordito nell'under 22, cioè quella che può essere la primavera, insomma, se vogliamo, ha 14 anni, quindi sono 8 anni sotto quota di 8 anni di 8 anni di differenza, e ha fatto delle cose molto molto impressionanti, quindi vedremo se avremo questo nome Dabone, segnatevi questo Dabone, ma che si pronuncia proprio così o c'è una pronuncia? Boh, non lo so, Dabon, Bemo Dabon, è così, quello lì, le bonde vero. Quindi insomma interessante anche questo sviluppo. Per quanto riguarda, dicevo, lo sport però americano, l'America si è fermata per le World Series di baseball, che è il passatempo degli americani, non è tanto lo sport ma il passatempo proprio degli americani, anche perché giocano praticamente sempre nel campionato lunghissimo e poi durano il tempo che durano, queste partite stai lì, fai la formula con i soft drinks illimitati allora, e passi la giornata. Tu scherzi, ma c'è stata una delle sette partite, si è arrivata a gara 7 per assegnare il titolo ai Los Angeles Dodgers, la squadra favorita, che fanno back to back, solo gli Yankees credo siano riusciti a fare back to back in almeno negli ultimi anni. Una partita è andata avanti con gli extra inning, in caso di pareggio ovviamente si continua fino a trovare la partita, è durata 6 ore. Quindi l'importante è avere il biglietto con i soft drinks illimitati. Eh sì, perché se dura 6 ore è una festa, perché tu hai 6 ore di tempo per bere Coca-Cola e robe del genere. È una giornata di lavoro, 6 ore però. 6 ore allo stadio a guardare una partita e anche sul campo a giocarla. È vero che il baseball, diciamo, no, è uno sport particolare, quindi non è. Sei anche molto fermo, in attesa che appunto si sviluppi il colpo e tutto quanto. Esatto, le partite in cui poi vengono colpite poche valide, tu sei praticamente immobile. Cioè, esatto. Tranne il lanciatore, gli altri non fanno nulla. A proposito di lanciatore, ormai insomma ne abbiamo già parlato da questi microfoni, perché ha firmato 2 anni fa il più grande, il contratto che valeva più soldi della storia degli sport americani. E poi è la tipologia di contratto che ha firmato, cioè lui effettivamente da Dodgers prende 2 milioni all'anno per tipo 7-8 anni. L'ultimo anno prenderà l'ultima rata, che è di tipo 700 milioni di euro, di dollari, una cosa del genere. È una particolarità molto. Però i Dodgers, da quando hanno preso Shohei Ohtani, per farla breve, il Michael Jordan del baseball moderno, ok? Tieni conto che questo è arriva in Major League perché è un grande lanciatore, no? Nel baseball c'è la differenza tra lanciatore e battitori, no? Che giocano. Quest'anno è stato il primo a fare 50 fuori campo e 50 rubate, cioè fuori campo è la palla che va fuori dal campo e fa punti, quindi tendenzialmente lo fanno quelli molto corpulenti e pesanti. Esatto. La rubata la fanno quelli piccolini e veloci, quindi lui è primo ed è il primo a farle entrambe, a fare una stagione da 50 e 50, 50 fuori campo e 50 rubate, ed è un lanciatore. Cioè, nel senso, un po' come dire, no, che non so, non c'è un paragone possibile. Non so, è come se Haaland, oltre a tutti i gol che ha fatto quest'anno, avesse parato anche 5 rigori. Esatto. Ha fatto 20 gol e ha parato 5 rigori. Ricordiamo tutti una drammatica campagna abbonamenti del Bologna con Moscardelli coi guantoni da portiere e claim: non importa cosa fai, importa che ci sei. È vero, e giocò, no, in porta in un finale a Parma. A Parma. Proprio a Parma, che appunto è stato il luogo dove ha giocato il Bologna questo fine settimana. Quindi insomma, situazione particolare, questo personaggio tra l'altro di cui non si sa quasi nulla, uno che non pare un giapponese tipo un samurai, non dice nulla, sorride sempre molto disponibile in quei minuti che è lì, ma non vuole domande sulla vita privata, non risponde a domande. Vabbè, io non rispondo, quindi non me le fare, perché d'altronde resto veramente fortissimo. E tra l'altro la particolarità della stagione è che essendo la gara 7 giocata in Canada, è la prima stagione che è iniziata e finita fuori dagli Stati Uniti, perché la prima partita è stata giocata in Giappone e l'ultima è stata giocata in Canada, quindi c'è anche queste statistiche che appunto piacciono tanto agli americani e li vengono segnalati. A proposito di statistiche, c'è stata anche la giornata di NFL che inizia a scaldare i motori e a crescere di colpi. Perché ricordiamo a tutti, quando noi qua cominciamo a guardare la classifica, in realtà loro là entrano nella fase calda, tosta, e ieri c'era il menù della giornata, prevedeva quello che ormai è diventato tipo il classico della NFL, ok? E cioè Kansas City Chiefs, ancora loro, ancora i Kansas City Chiefs contro i Buffalo Bills del nostro amico Fio. Finisce con la vittoria dei Bills, finisce con un 28-21, capito Fio? Josh Allen, solita partita da quarterback che ogni tifoso di football vorrebbe per la sua squadra, è proprio il prototipo del quarterback che vuoi. Ok, solita partita da, non so, centinaia di yard, 2-3-2 quarterback snack addirittura, riesce con movimento del linebacker da dietro, niente male, bella azione. Si segnala la prestazione del tight end Kincaid, che supera le 100 yard, un touchdown, tante belle portate importanti. È stata una bella partita, 21-28. Ma quindi per il Buffalo c'è qualche possibilità di vederli anche nel momento che conta? No, perché so che Fiosse, quando arrivano i playoff e ci sono i Buffalo, lui stacca tutti i cellulari, allora, e segue. Purtroppo dobbiamo continuare col discorso, il parallelo è questo qua. L'Arsenal primo, prima di Natale in Premier League, i Bills che spaccano i culi a tutti prima di dicembre. per il momento sta andando tutto in questo, speriamo per una volta in un finale diverso per entrambe. Per entrambe, sì, a questo punto Arsenal e Bills insieme, no? In questa utopia. Una pagina di clamorosa utopia. In realtà tutta la sverzura di questo momento è stata un attimo traumatizzata da una news dell'ultimo minuto. Non diamo solo belle notizie in finale di programma. È stato esonerato Pioli? No, non ancora, pare di no per il momento, però Remo Freuler ieri si è fratturato in modo scomposto la clavicola è una gran rogna perché non si può fermare, non si ingessa, non si mettono dei tutori esterni e si opera e basta, quindi i tempi di recupero a partire da un mese più verosimile 2026. Sì, perché adesso vabbè, fra poco si avvicinerà, poi ci sarà c'è la Supercoppa quest'anno, il Bologna gioca la Supercoppa che può vincere tra l'altro, cioè, che non ha detto che non insomma, sono i 4 al 25% torna al 25%, pensa com'è cambiata la situazione dal punto di vista calcistico. Va bene, questa è purtroppo la notizia, del resto si capiva che c'era qua stato qualcosa, che è stato sostituito ieri Freuler durante la partita, e appunto a questo punto arriva l'ufficialità dell'operazione. Quindi insomma, per qua torniamo un attimo al football americano, tra l'altro appunto prima dicevamo di Otani che ha firmato il contratto più ricco della storia dello sport americano, quello prima era credo quello di Mahomes, e aveva firmato un decennale qualche anno fa, ormai passerà tipo a metà, forse anche più di metà del suo contratto, aveva firmato un decennale da 500 milioni di dollari di cui 280 credo garantiti, che significa che le hanno dati subito senza che prevede infortunio, ed è, per paradosso che può sembrare, un contratto che già 3 anni fa era già conveniente per la società che ha cacciato quei soldi. Lo so che può sembrare paradossale, ma siccome questi poi hanno vinto 3 Super Bowl disputandone tipo 5 nel giro di 7 anni, che sono gli anni in cui Mahomes era lo starter dei Chiefs, un contratto da 500 milioni di 10 anni è già conveniente per quello che quei soldi l'ha già cacciati. E comunque Ottani, quindi 500 erano i milioni per Mahomes, arriva a 700 milioni che anche in questo caso in 10 anni distribuiti come dicevamo prima. Questo era anche un modo per eludere un po' il salary cap, infatti qualche critica è stata fatta perché prendendo poco quest'anno, in questi primi anni di contratto, ovviamente risulta il salary cap più basso poter comprare giocatori più forti. Non a caso sono la seconda squadra a riuscire a fare il back to back nel baseball, in questo caso stiamo parlando di Los Angeles Dodgers, quindi non ancora abbiamo parlato di football, abbiamo parlato di tutto, ma non ho ancora sentito la parola 49ers, vuol dire che sta andando male. Non sono riuscito ancora a guardarlo, quindi ti racconterei di qualcosa che non ho visto, insomma si fa divertire. No, sapevo che non stavano andando male, anche perché abbiamo promosso quarterback starter Mac Jones, che era l'oggetto misterioso che usciva da New England e che invece pare che nel sistema di Kyle Shanahan pare che stia funzionando bene. Adesso l'ultimo mi sembra che l'abbia vinto, non so ieri come sia andata, ma stavano andando piuttosto benino. Ha vinto contro il New York Giants, che comunque sono partiti molto male, 2 vinte, 7 perse. San Francisco è 6-3, quindi insomma una buona partenza. Però non ci si aspetta, gli ultimi anni sono stati un po' scottanti, come ti devo dire. Vediamo, magari è l'anno in cui invece tu ti stai zitto, non ti fai notare, perché siamo sempre andati avanti in questi anni con la difesa quella super massiccia, super veloce, super forte, che purtroppo però non ha portato alla vittoria finale. Vediamo. Quindi, riflettori su Buffalo. puntiamo su Buffalo, va bene questa cosa, ti va bene? Dai, puntiamo rega, carichi, cioè, girerà a un certo punto. Sì, del resto la Gazzetta dice Buffalo stende Kansas City, Bills da Super Bowl, cioè lo dice proprio lei, quindi tieni sulle mani dal tavolo, il buon Fio è andato direttamente nella parte bassa del tavolo. Va bene, siamo verso la fine, è tornato il numero uno Sinner ha vinto Parigi ed è tornato numero uno, però rimarrà numero uno una settimana, perché lui, avendo fatto così tanti punti nel 2004, perderà dei punti guardandosi. Sì, adesso c'è Torino, se non mi sbaglio. Ci sono le si va le diciamo le finals. Manca qualche torneo perché ancora non è definito il gruppo di tutti gli otto che parteciperanno alle finals. È ancora Musetti che ha qualche piccola possibilità proprio contro Félix Auger-Aliassime, che ha perso contro Sinner la finale di Parigi, però aveva già, arrivando in finale, l'aveva superato proprio arrivando grazie al risultato di Parigi. Che strazio, finisce sta bolla del tennis che io già non ne posso più. Davvero? Sì, cioè davvero, andava bene come era prima, col calcio che dominava tutto e questi qua ricchissimi, sempre tutti bellissimi tennisti, ricchissimi, bellissimi, giovanissimi. Sono su Maroni, mi vanno, ok? Può finire sta bolla perché. Vabbè, allora parliamo di pallavolo. Ma, no. La Ferrari si è ripresa? No, neanche quella, non si possiamo buttare neanche su quella. Siamo quasi al termine, dal punto di vista dei motori non c'era nulla. Non c'era niente, oggi motori questa settimana in stand-by totale. E quindi vi chiedo, Verstappen, come ha passato il fine settimana? Secondo me è andato a correre a piedi, ma su un circuito asfaltato. Ah sì, bene, non c'erano gare, quindi circuiti erano lì. Ma secondo me è andato a fare la Parigi-Dakar. C'è la Parigi-Dakar in questo periodo, no? In un weekend non ce la faccio. L'ha fatta in un weekend lui. L'ha fatta in tre giorni fa Parigi. Ma io vengo, però la faccio in tre giorni. Non dormo, non faccio niente perché effettivamente insomma, ho bisogno di fare qualcosa. No, però sai, me lo chiedo ogni tanto. Un po' come cosa ha fatto Torino Sereso il 31. La notte del 31, no? Lui era a casa perché era uno sportivo, no? Era la famosa battuta di vacanze di Natale, il primo vacanze di Natale, che a mezzanotte il tipo chiede alla fidanzata: ma secondo te Torino si è reso? Cosa sta facendo? Va bene, non abbiamo trovato neanche una garetta in cui ha partecipato Verstappen e quindi a questo punto dobbiamo salutare e lasciare lo spazio all'informazione. Ciao.